Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Buona serata a tutti, buona festa. Mirko Cavallin, questo appuntamento speciale di Blu Time, edizione live, perché anche quest'anno per la terza volta vi proponiamo la differita, la registrazione della rassegna corale Cori d'Accordo del Vicariato di Spresiano in diocesi di Treviso. Una serata che ho avuto l'onore e il piacere di condurre, di presentare. Si è svolta sabato 25 di ottobre nella chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria a Catena di Villorba. 7 i cori che hanno partecipato quest'anno con la formula generale, diciamo, di cantare insieme, di proporre 2 brani e di coinvolgere anche il pubblico in una forma che tra poco scopriremo. I primi due cori che sono saliti sul presbiterio appunto della chiesa di Catena sono stati il coro Fontane di voci, composto da 20 ragazzi di tutte le età, svolgono il loro servizio nella messa domenicale delle 11 e anche in occasione di matrimoni, accomunati dalla voglia di cantare e stare insieme anche al di fuori dei momenti strettamente legati alla musica. Quest'anno hanno appunto voluto scegliere il nome, non ce l'avevano, Fontane di voci. Vorrebbero portare la propria presenza anche in altre attività extra parrocchiali. Il coro è diretto da Simone Rottin. Assieme a loro il coro Giovani di Catena, nato più di 25 anni fa col proposito di animare le celebrazioni liturgiche. Negli anni si sono succeduti e sono cambiati i componenti del coro, gli strumentisti, ma è rimasta invariata la voglia di pregare cantando. In questi anni c'è stata anche l'occasione di partecipare a varie rassegne corali e di organizzare anche alcuni concerti a scopo benefico. Attualmente il coro Giovani di Catena è composto da una 15 di elementi, la coordinatrice Sabina Buosi. In varie occasioni possono contare sul prezioso aiuto di Marco Pelliconi e del maestro Nicola Vendramin. Il primo brano che hanno proposto insieme, Al Signore canterò. Vogliamo cantare, lodare sempre il suo nome, lui che inonda la nostra vita di fiducia, speranza, giustizia, luce e forza. Dio è amore e sicurezza, respiro di vita. Al Signore canterò di De Florian e Ass, al violoncello Silvia Breda, alla tastiera Maddalena Gatto, dirige il maestro Simone Rottin, il coro Fontane di voci e il coro Giovani di Catena. Thank you. Coro Fontane di Voci e Coro Giovani di Catena, che adesso ci propongono il secondo brano, In Eterno Canterò. Anche questo è un canto di lode. Le nostre labbra vogliono esaltare la fedeltà del nostro Dio e continuare ad annunciare sempre il suo nome, certi che anche nei momenti bui del deserto, la sua luce e il suo amore saranno la nostra guida. In Eterno Canterò di Vassallo e Cupuzza. Qui si aggiungono altri strumenti, alle chitarre, Davide Dorigati, Luca Romanello, Anna Bianchin, tastiera Giancarlo Ferrara, batteria Andrea De Vidi, basso Marco Pelliconi, dirige Nicola Vendramin. In Eterno Canterò. In eterno canterò la tua lode. il coro Fontane di Voci di Fontane, il coro Giovani di Catena, In Eterno Canterò. E adesso direte, hanno fatto due canti, devono andare via. No, la sorpresa dell'anno è che loro restano per fare un altro canto, ma questa volta con voi. Voi siete lì, sapete leggere, c'è lo schermo, chi lo sa canta, chi non lo sa, come dice mio parroco, canta lo stesso. Si intitola Mi basta la tua grazia, sempre col maestro Nicola Vendramin. montagna di voci, di fontane, il coro giovane di catena. E l'applauso ancora. Grazie. Io ho fatto uno scherzetto, in realtà non c'è il testo. Era uno scherzetto, per cui chi lo sa, la memoria canta. E vale sempre che chi lo sa, chi non lo sa, canta lo stesso. Adesso c'è la new entry dell'anno. Vediamo quale colore si muove, mi pare di capire. L'azzurro. Il coro new entry è il coro Insieme Per di Lancenigo. Applauso. Vedo tantissime maglie azzurre muoversi, intanto lo presentiamo. Il coro Insieme Per è nato nei primi anni 70, grazie ai fondatori della CR della parrocchia. Per molti anni ci sono stati molti ragazzi e giovani, fino ad attraversare, come succede un po' a tutti i gruppi, anche i gruppi che cantano, una crisi alla fine degli anni 80. Poi si è ritrovato lo spirito e si sono aggiunti cantori di tutte le età, adulti, giovani e ragazzi, dove proprio da questi ultimi, negli anni più recenti, e adesso li vedremo perché sono tantissimi, sono fioriti anche numerosi musicisti e strumentisti. Il coro si propone di animare costantemente tutte le liturgie domenicali a Lancenigo e anche quelle festive nel corso dell'anno. Il direttore è Paolo Carraro. Siccome è una new entry, come segno e gesto di ospitalità, prima di accoppiarsi con un altro coro per l'esibizione, faranno un canto loro da soli, sempre col mistero dei corridoi della chiesa di Catena. Scopriremo Don Marco come sono fatti più o meno, prima o poi. Il coro Insieme Per di Lancenigo da solo ci proporrà Popoli Tutti Acclamate, un brano tratto dall'amplissimo repertorio del Rinnovamento nello Spirito, canto a quattro voci in cui l'autore trae la sua ispirazione dal repertorio dei Salmi. Un canto di acclamazione dove la gioia viene trasmessa dalla potenza espressiva del ritornello. Richiama alla fratellanza tra i popoli e quanto ne abbiamo bisogno in questo periodo. Invita a lodare il Dio per sempre fedele, creatore dell'universo e padre di tutta l'umanità. Hanno trovato lo sbocco. Per ordine di età e anche di altezza, i più piccoli davanti. Chi è il più piccolo di età, lo sapete? È lei, lui, siete voi. Quanti anni avete? 11 e mezzo. 7 e mezzo. 7? 8. Insomma, siamo lì, abbassano la media, perché adesso arriva i giovani, i diversamente giovani arrivano. Salutiamo i maschi che sono sempre meno nei cori. Lo dico per solidarietà di categoria, e sono sempre dietro e nessuno li vede. Tutte le età rappresentate, insomma, eccoli qui. Alle chitarre Maddalena Aircò e Claudia Gerotto, alla tastiera Fabio Carraro, al basso elettrico Eddie Bassan, alla batteria Davide Carraro, alle campane tubolari, anche queste ci sono, Luigi Dal Moro, al violino Sonia Barbon. Dirigerà il maestro Paolo Carraro. Il coro Insieme Per di Lancenigo con Popoli Tutti Acclamate. il coro insieme per Di Lancenigo, maestro Paolo Carraro, che ritroveremo tra poco. Adesso dovete fare spazio a chi canta con voi. Il secondo coro che si aggiunge, allora sono entrati ufficialmente in cori d'accordo perché hanno esordito. Si aggiunge adesso in coppia con insieme per Di Lancenigo il coretto di Varago, maglietta bianca, rosa, sono daltonico e ho un'età. È un rosa un po' fiappo questo. Eccoci qui, anche qui abbiamo un new entry. Il coretto di Varago è nato circa 8 anni fa in occasione di una messa della prima comunione, con l'impegno di alcuni genitori che hanno insegnato qualche canto con la chitarra ai bambini. Da quell'esperienza è nato il desiderio di intraprendere un percorso più completo e con semplicità e disponibilità, un po' alla volta questo impegno è divenuto costante nella celebrazione della messa domenicale. Bambini, anche qui li vediamo, giovani, adulti compongono questo gruppo con voci e strumenti che si mettono a disposizione con impegno ed entusiasmo nella propria comunità. Il coro è diretto da Roberta Bisetto. Insieme al coro, insieme per Di Lancenigo, adesso due brani. Il primo è Viamo Così, un canto nato in mezzo ai giovani durante un'esperienza di formazione musicale dove i due autori, lavorando e dialogando proprio con i giovani, hanno vissuto l'esperienza della presenza di Gesù tra loro, quel Gesù che ogni giorno incontrandoli conferma il suo amore. Ma è un canto con parole che sono rivolte anche a noi, perché nonostante tutto Gesù ci dice in tutti i giorni della nostra vita: vi amo così e vi amerò come vi ho amati, con voi resterò. Alle chitarre Gabriele Collin, Veronica Scandiuzzi, Leonardo Piccin. Tastiera Giorgia Brugnerotto, basso Eddie Bassano, batteria Andrea Castagnaro, violino Sonia Barboni e Nicole Sapalma, dirige Roberta Bisetto. Insieme per Di Lancenigo e coretto di Varago. Viamo così. Thank you. Diciamo così, il coretto di Varago è Insieme per di Lancenigo. Secondo brano, insieme, adesso c'è un po' di giro, di strumentisti, di direttore. Il prossimo brano è di Paolo Spoladore, si intitola Altissimo. È tratto dal Cantico delle Creature di San Francesco di Assisi. L'autore ha saputo creare una melodia che veste in modo meraviglioso il testo di San Francesco, con dolcezza e delicatezza. Attraverso un crescendo musicale, conclude con il ritornello in un'esplosione di gioia e di lode per l'immensa bontà del nostro Dio, Padre e Creatore dell'Universo. Alle chitarre Maddalena Airco e Claudia Gerotto, alla tastiera Fabio Carraro, Anna Bozzobon, al basso Eddie Bassan, alla batteria Davide Carraro, alle campane tubolari Luigi Dal Moro, ai violini Sonia Barbone e Nicole Sapalba, ai fiati Michela Bassan, Silvia Mazzon, Francesca Mazzon, Sara Bergamo e Giacomo Callegari. Dirige Paolo Carraro, coretto di Varago e Insieme per di Lancenigo, Altissimo. maestro Paolo Carraro per la traccia sorpresa. Allora, l'idea di far partecipare tutti quest'anno è stata stupenda, una delle più belle cose, perché è così che la Chiesa, così sono le nostre comunità. Allora, noi abbiamo pensato di cantare assieme un canto, che non vuol dire che noi nelle nostre celebrazioni dobbiamo sempre cantare tutto, a volte si cantano i ritornelli. Allora vogliamo provare insieme, una piccola prova di canto insieme, il canto è il Magnificat, è un Magnificat molto antico, e il ritornello è semplicissimo, sono parole che conosciamo già, e il ritornello è lungo come un ritornello dei salmi che facciamo ogni domenica, per cui cantiamo quelli e praticamente è di questa stessa lunghezza. Allora ve lo facciamo sentire, poi lo ripetiamo insieme. Le parole sono queste: l'anima mia esulta in Dio mio Salvatore, tutto qua, ripetuto due volte, e poi alla fine la sua salvezza canterò. Ve lo facciamo sentire, Veronica. Forte. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore. La sua salvezza. Proviamo tutti insieme, col coro, continua. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore. L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore. parte all'altra, dai cori, Coretto di Varago, rosa, e insieme per l'Ancenigo, con la maglietta azzurra, per questo splendido Magnificat. Tornano al posto perché adesso c'è un altro momento. Il prossimo coro canterà da solo, ma per un motivo aritmetico, perché essendo sette i cori quest'anno, non si poteva fare tre e mezzo, e quindi uno per forza deve cantare dispari da solo. È il coro, è il gruppo canto Giovani di Spresiano, nato nel 1987 per iniziativa di un gruppo di giovani dell'Azione Cattolica, degli scout e dell'allora seminarista Don Adriano Fardin, che adesso fa l'economo della diocesi. 27 anni di storia, molti ragazzi, giovani e adulti hanno portato il loro contributo gratuito all'attività del coro, che attualmente è composto da una ventina di elementi accompagnati da chitarre e pianoforte. Il coro svolge sempre, da sempre, il suo servizio di animazione alla messa domenicale delle 9. Eccoli. Per offrire un servizio valido e utile, i canti vengono scelti di volta in volta in modo che siano coerenti con la liturgia. Viene anche fornito sostegno ai gruppi parrocchiali e al catechismo nelle principali tappe dell'anno. Alcuni coristi si alternano per insegnare ai ragazzi i canti durante i pomeriggi di catechesi. In diverse occasioni il gruppo ha animato liturgie nuziali, incontri, veglie di preghiera, anche fuori della parrocchia di Spresiano. Il gruppo Canto Giovane è diretto da Lucia Somero. E arriva al suo posto. Anche loro, ormai avete capito il meccanismo, due canti ufficiali che trovate nel vostro programma e una sorpresa che poi scopriremo dopo. Il primo canto è Una goccia del mare di Chiara Casucci e Mite Balduzzi. Una goccia del mare ti chiedo che dissetti come rugiada, una goccia del mare dell'infinita sapienza tua. Ma quante sono le gocce del mare? Non si possono contare. Ed è proprio vero, è proprio attraverso questa metafora che l'autore Balduzzi vuole innalzare una lode di affidamento al Signore, riconoscendo in lui la sua infinita grandezza. Alla tastiera Silvia Cappellazzo, dirige Lucia Somero, gruppo Canto Giovani di Spresiano, Una goccia dal mare. Thank you. Una goccia dal mare con il gruppo Canto Giovani di Spresiano, secondo brano dal repertorio del Rinnovamento. Ascolta la nostra lode. Un brano gioioso che prende spunto dal Salmo 117 ed è, come altri, un canto di lode. Nei cieli, sulla terra e in ogni luogo risuona forte la nostra gioia. Alle chitarre Michele Somero e Andrea Zampieri, alla tastiera Silvia Cappellazzo, alla batteria Davide Carraro, al basso elettrico Stefano Brisotto, dirige Lucia Somero. Ascolta la nostra lode. gruppo canto Giovani di Spresiano, come si suol dire, pochi, meno degli altri, ma buoni. La traccia sorpresa, vi do due indizi, non serve provarla. San Giovanni Paolo II, GMC, Roma, 1985. Thank you. Grazie al gruppo Canto Giovani di Spresiano. Questa sì la sapevano, insomma. Via le maglie rosse, adesso dentro altri due colori, l'arancione e il rosa più rosa di quello di prima. Sono il gruppo Canto Giovani, Voci Controcorrente di Bisnadello, il coro Giovanissime, il coro Giovani Dentro di Breda di Piave. Avanti! Partiamo da Bisnadello, il gruppo Canto Giovani Voci Controcorrente è nato nel 2000 per iniziativa di alcuni ragazzi della parrocchia con lo scopo di animare la messa della domenica in uno spirito di gioia e di festa. Da molti anni la loro presenza è costante alla messa del sabato sera durante tutto l'anno liturgico, anche d'estate allora, oltre che a Natale e a Pasqua. Coi loro canti guidano l'assemblea durante la messa e accompagnano i fedeli in clima di preghiera e ascolto. Nel corso degli anni hanno cantato a matrimoni, veglie di preghiera, vicariali, prime comunioni, cresime. Partecipano a questa rassegna cori d'accordo fin dall'inizio. Gruppo attualmente composto da 25 elementi circa, tra cui 20 coristi, 4 musicisti, 2 chitarre, flauto traverso, percussioni, tutti tra i 14 e i 27 anni. Il coro è diretto da Alessandra Conte. Il coro Giovanissime, il coro Giovani Dentro di Breda di Piave invece sono 2, ma fanno un coro unico questa sera. Il coro Giovanissime è nato nel gennaio del 2000 con l'idea di animare col canto la Santa Messa della Domenica. Hanno cominciato in pochi, ma poi sono cresciuti. Attualmente sono una quarantina ragazze e bambini che ricoprono tutte le età, dalle elementari fino all'università. Oltre all'impegno domenicale, hanno partecipato nel corso degli anni a diversi progetti organizzati in collaborazione con il Comune di Breda, nonché a tutte le iniziative nell'ambito della pastorale giovanile della parrocchia. Coro diretto da Sara Schiavinato. Insieme a loro il coro Giovani Dentro, che muove i primi passi nel 2008 autonomamente, intuendo che forse anche persone adulte a cui piacesse cantare sarebbero riuscite a trovare il tempo, tra impegni di famiglia, lavoro, catechismo e chissà quante altre cose, per provare a rendere un semplice servizio a qualche celebrazione in avvento, quaresima o al sabato sera. Col tempo il coro si è arricchito di persone e di piccoli impegni. Stasera ecco allora che papà e figlia, mamma e figlio si uniscono per condividere questa esperienza di gioia reciproca, la voglia di cantare insieme. Questa sera anche loro due canti che rievocano entrambi la sapienza dei salmi. Si ispirano in particolare ai salmi 98 e 144, inni di adorazione e di lode. Il primo è Dai confini del mondo, che riunisce le voci delle creature che provengono da ogni parte del mondo. Questa è la parola, funziona? Okay. Dal profondo del mare come dalle altezze del cielo, dal cuore del mite come le grida del forte. Tutte queste voci confluiscono nel ritornello, l'apice della composizione in cui le voci maschili e femminili si fondono in un grande coro che proclama la gloria del Signore. Alle chitarre Andrea Zampieri, Luca Coan e Luigi Bergamo, al flauto traverso Marco Bettiol, alle tastiere Moreno Sala, al basso Federico Bin, alle percussioni Giacomo Cecconato, alla batteria Davide Carraro, voci soliste Giovanni Conte e Anna Fontan, dirige Sara Schiavinato, Dai confini del mondo. Gruppo Canto Giovani, Voci Controcorrente di Bisnadello, Coro Giovanissimi e Giovani Dentro di Breda di Piave. I'm mondo qui a Cori d'Accordo. Prossimo canto, anche questo tratto da un salmo, il 144, il re Davide a lui attribuito: ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. La parola alleluia, il canto della risurrezione davanti alla vita che sconfigge ogni paura, oppure la parola di fiducia e perseveranza nei giorni di fatica. Alle chitarre Andrea Zambieri, Luca Coanne e Luigi Bergamo, al flauto Marco Bettiol, alle tastiere Moreno Sala, al basso Giovanni Conte, alle percussioni Giacomo Cecconato, alla batteria Davide Carraro, dirige Alessandra Conte, canterò alleluia. voci controcorrente di Visnadello, giovanissimi e giovani dentro di Preda di Piave. Sara, c'è da dire qualcosa sul prossimo canto? Andiamo così. Un canto, va bene. Lo sanno, se lo sanno, come sempre, lo canto. da Breda di Piave, coro giovanissimi e coro giovani dentro, da Visnadello il gruppo canto giovani voci controcorrente, che restano qui perché siamo verso la fine. Infatti adesso, come si chiama la rassegna, si chiama Cori d'accordo, e adesso arrivano tutti, quindi io mi devo spostare in luogo più appropriato perché saranno tanti. Mettiamo in palio un premio per chi indovina quanti sono in totale, dai più piccoli, dai 7 agli X anni. I canti che propongono sono due. Il primo è tratto dal repertorio del Gen Verde, intanto lo presentiamo, e ricordiamo che poi c'è il rinfresco per tutti in oratorio. Quindi non andate via, non finisce qui la serata, perché come dicevano i cori nella loro presentazione, è bello stare insieme per cantare, ma è bello stare insieme e basta, anche per tramezzino, un bicchiere di bibita o un caffè. Il primo brano sarà dall'album Il Mistero Pasquale del Gen Verde, anno 2011, Tutto il mondo deve sapere. Un canto che racconta la palpitazione e lo stupore delle donne che la mattina di Pasqua trovano ad attenderle un sepolcro vuoto e spalancato. Ma la paura ben presto lascia spazio ad una felicità sconosciuta, una gioia che fa piangere e fa gridare. Gesù Cristo, il Signore, è risorto dai morti. Tutto il mondo, dunque, come dice il titolo, deve sapere che Egli è vivo ed è rimasto in mezzo a noi. Alle chitarre Andrea Zampieri, Luca Coanna e Gabriele Collin. Al flauto Marco Bettiol. Ai violini Daniele Carrer e Nicole Sapalma. Tastiere Alberto Bellio. Basso elettrico Eddie Bassan. Percussioni Giacomo Cecconato. Batteria Davide Carraro. Sto leggendo lentamente per dare modo che si preparino anche Claudio, il regista audio. Spidal OK, dirige Roberta Bisetto, i cori d'accordo in Tutto il mondo deve sapere. Tutto il mondo deve sapere, e credo che l'abbiano sentito, ben al di là del vicariato. Prima, mentre provavate questo canto, io stavo arrivando e si sentivano i muri vibrare da fuori. Secondo canto, il canto finale con cui ci salutiamo, non subito, perché poi continua la serata. L'ultimo salmo che citiamo con questo canto è il Salmo 30, canto di lode che esalta l'azione di Dio che cambia il lutto in danza e il lamento in canto di gioia. Si apre allora con rinnovato stupore il cuore alla lode di Dio in questo canto gioioso di testimonianza. Alle chitarre Andrea Zampieri, Luca Coan, Gabriele Collin, al flauto Marco Bettiol, alle tastiere Alberto Bellio, al basso Eddie Bassan, le percussioni Giacomo Cecconato, alla batteria Davide Carraro. Dirige Sara Schiavinato, cantiamo insieme al Signore, cori d'accordo e fin d'ora grazie. Thank you. tuo cuore. C'è un bis? Oh, c'è il bis? Beh no, sì, c'è il bis. Volete il bis? Vogliono il bis? Dov'è la maestra? Sara o Alessandra? Scegliete voi, faccio qualche ringraziamento, intanto decidete, ok, va bene, mi giro di qua. Ringraziamo gli sponsor, alcuni, anzi tutti quelli che hanno contribuito con prodotti di consumo che poi avremo il piacere di consumare. La farmacia di Catena, la polisportiva di Catena, macelleria Bettello, Giuliano e Dario, Garden Center Bardin, panificio L'Arte del Pane, pizzeria da sport Re Giorgio e poi complessivamente tutte le persone che a titolo puramente gratuito, altri panifici, macellerie, privati, mamme, genitori, nonne che hanno preparato o donato qualcosa per tutti per la realizzazione del rinfresco che ci aspetta dopo. Altre persone che hanno collaborato, ovviamente la parrocchia di Catena, il parroco Don Marco per l'ospitalità, la polisportiva e il gruppo parrocchiale di Catena per la gestione del rinfresco e la preparazione dei locali del Circolo Noi, Giada Rigato per la realizzazione delle locandine e dei programmi di sala. E sono andate in giro ovunque, anche via elettronica oltre che cartacea. Roberto Bellio e Company per la proiezione dei video della diretta di stasera, tutti gli operatori telecamere che ci sono. Oreste e Luca di Lancenigo per la realizzazione del video della serata, che poi avremo modo di vedere. La fotografa ufficiale Alessandra Mazzero, che ha curato anche la pagina Facebook di Cori d'Accordo. I nostri tecnici audio, Claudio Gallo e Alessandro Lazzari, senza di loro non si sente bene. Don Marco, prima del bis. L'anno scorso eri contentissimo, quest'anno non so. Di più. Ciao intanto a voi. La parola bella da ripetere, penso anche quest'anno, sia la parola grazie. C'è una pubblicità che gira ultimamente che si può dire in altri modi, ma penso che il modo più bello, quello che arriva subito al cuore, è la parola grazie. E il grazie penso di dirlo a nome di tutti noi preti che abbiamo il dono di celebrare bene con i cori che cantano con gioia. Per questo vi dico grazie, almeno è quello che sento io ogni volta che il coro canta con gioia. La gioia si sente anche dai canti, dalle parole. Avete cantato bellissime parole che compongono i canti che vengono usati nelle celebrazioni, vari momenti. Sono parole di lode, di gioia, di gratitudine, di riconoscenza del Signore, anche parole di richiesta. Ecco, una cosa bella e importante, non va più di moda, penso un po' per voi, un tipo di preghiera, tipo il rosario, oppure dire lodi, vespri, queste cose qui. E vi invito a una cosa, ricordate le parole dei canti, ogni tanto usatele come preghiera. Sono preghiera, diceva Sant'Agostino, più di qualche secolo fa, lui diceva chi canta prega due volte. E ricordate le parole dei canti che cantate la domenica, parole di lode, di gratitudine, quelle che vi vengono in mente, quelle che vi piacciono. E ripetetele anche durante il giorno, guardate che il Signore accoglie tutto. Non è lì che conta quante parole gli dite, ma quando vengono dal vostro cuore e vogliono esprimere quello che veramente volete rivolgere a Lui, sono già arrivate a destinazione e avranno sicuramente effetto. Questo è l'augurio e l'invito per voi. Così le parole cantate diventano preghiera, un modo nuovo, un modo diverso, un modo bello. Con la vostra gioia, mi raccomando, sempre. Ciao e grazie. Grazie Don Marco. Il bis, allora, visto che hai detto bisogna usare le parole dei canti, ricantiamo al Signore. No. Teatro di Spresiano, 8ª edizione. E ci diamo appuntamento per la 9ª edizione nel 2015, sempre più o meno in questo periodo di autunno. Chissà se sarà ancora qui in un'altra chiesa, questo lo scopriremo. Grazie a tutti per questa serata e allora buon proseguimento. Live Blue Time. Blue Time Live.